Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, questa è Blu Radio Veneto, siete all'interno di Blu Radio Sera, sono le 21 e 8 minuti primi di questo martedì 18 gennaio del 2011. Appunto, dicevo, buonasera da parte di Flavio Bilato e da parte di Maurizio Calzavara. Abbiamo degli ospiti d'eccezione anche in questa serata che ci vogliono proporre la loro musica dal vivo. E quindi, Maurizio, buonasera intanto. Buonasera, ho sentito ancora Flavio. La tua voce. Buonasera, Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Anche perché sei ben coperto. Sì, assolutamente. Sono coperto in tutti i sensi. Sì. Nel senso anche che non ti vedo perché sei coperto da un vinile, mi sembra. Ma bellissimo, sì. Adesso lo leviamo via. È il vinile che ci ha portato Giancarlo e l'ha prodotto lui, dal disco ultimo, proprio allora, in vinile. Allora diamo il benvenuto anche a Giancarlo Frigeri, eccolo qua. Buonasera. Grazie Giancarlo. Mille, buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti quelli che vedono via internet, c'è questa diavoleria elettronica. Si chiamano webcam e hanno assistito al tuo movimento leonino. Sì, un po', fa molto Amanda Lear. Benissimo. E salutiamo anche il tuo accompagnatore, che è Cesare, che è venuto qua e più tardi ci delizierà con la sua mini batteria in questa serata. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, per cominciare, vediamo un attimino. Come sta la laringe innanzitutto? La laringe sta bene, l'esofago no, ma vabbè, insomma, ci si convive. Il problema grosso mio è all'esofago. È una cosa cronica con la quale devo convivere, devo stare molto attento perché può diventare una cosa brutta. Ce l'ha anche il cantante degli AC/DC, ho scoperto. Vedi. Chi è? Bon Scott, no? In questo caso. No, Bon Scott no. È morto e aveva qualcos'altro. Infatti, insomma, scusami, sì. No, quello Brian Johnson, penso. Brian Johnson. Sì, perché sì, cercavo il nome della malattia su internet, come fanno tutti quando ti dicono che hai una malattia, vai su internet così. Ed è la cosa peggiore che uno può fare, no? Te la fai sotto perché leggi solo le parole brutte, no? Sì, dopo alla fine. Cioè, tipo, leggi con questa non si muore, tu leggi solo si muore. È un automatico neretto, no? Sì, che sì, viene sì, fuori. Sì. Allora dopo avevo trovato articoli su questo qui, che l'aveva scoperto in Italia, fra l'altro. Ah, beh. Quindi, vabbè. Quindi siamo a posto in questa serata. C'è, sì, abbastanza. Si considera anche un ritorno al grande vigore della tua voce e delle tue canzoni. Sì, anche se spero. Il disco, diciamo, è il del 2010. Sì, il disco è uscito a febbraio, cioè uscito. Poi adesso il termine uscito per un disco è già anacronistico, nel senso che siamo nell'epoca dello scaricamento selvaggio, quindi non ha neanche più tanto magari senso parlare di dischi usciti. Comunque il disco ha visto la luce nel febbraio 2010 e sarei dovuto venire qui a settembre, solo che poi ho avuto questi problemi lievi. Ne avevamo sentito parlare, ci fa piacere invece ritrovarti. No, adesso va abbastanza, va bene, insomma, alti e bassi, ma andiamo bene. Bene, allora vediamo di capire innanzitutto Giancarlo Frigeri, quello che è stato il tuo passato musicale, tanto per comprendere sempre meglio quello che è il tuo presente attuale, con l'album che hai portato sia in versione vinile che in CD, che si intitola Chi ha rubato le strade ai bambini? Punto di domanda. Punto di domanda. Allora, da dove partiamo? Quando sei nato musicalmente parlando? Musicalmente parlando intendi proprio la prima lezione di strumento? La prima lezione di chitarra, no? Quella a 9 anni, il basso, volevo suonare il basso. Penso di essere stato uno dei pochi bambini che non voleva suonare la chitarra ma voleva suonare il basso. Poi però non c'era la scuola, o meglio c'era ma era un fallimento. E quindi ho iniziato con la chitarra. Ma ci sono molti bambini che iniziano anche con la batteria, tu lo puoi confermare? Sì. Anche sì, perché sì, l'hai toccata, no? Sì, la batteria l'ho toccata dopo. Concorrente di Cesare in questo caso. Oddio, no, è un altro andare. Era uno sporco autodidatta che si sentiva, insomma. Però l'hai suonato per 4 anni, mi pare, la batteria. Sì, circa 3 o 4 anni. Sì, con un gruppo di un certo gruppo indie, si chiamava così, gruppi indie. Sì, si chiamano ancora così. Si chiamano ancora con i Juli Sercat, che insomma. Era un gruppo molto importante nel panorama indie. Sì, si suonano ancora, insomma, con un buon seguito. Com'è stata l'esperienza di 4 anni con i Giulia? Beh, loro sono amici di infanzia, adolescenza, quindi è stato molto naturale. Cioè, è stato come suonare con degli amici. Certamente. Mi è dispiaciuto molto dover finire anche lì per problemi. Io purtroppo veramente sono fortunatissimo e quando le cose mi stanno andando bene mi succede qualcosa. Beh, si supera però, dai, Giancarlo. Sì, si supera. Allora, l'importante è che si supera. Poi hai inventato un altro gruppo, frontman dei Joe Lehman. Sì, abbiamo, ci siamo divertiti anche con loro per una decina d'anni e dopodiché appunto... Hai deciso un album solista? Sì, più che altro ci eravamo sciolti perché avevamo, insomma, eravamo arrivati secondo me al capolinea della nostra esperienza insieme, non c'era più niente da darci l'uno con l'altro. E allora dopo sono partito da solo, ho fatto subito un disco in inglese perché ho sempre cantato in inglese, avevo un po' paura di fare il salto della quaglia e poi a un certo punto mi sono deciso a iniziare a cantare in italiano e oggi sono molto contento di aver cominciato. È una cosa fondamentale, hai rotto con tutte le case discografiche, hai voluto produrre il disco da te, assolutamente. Sì. Meglio facciamo così. Sì, il discorso dell'autoproduzione non è tanto ideologico per me, nel senso... se c'è un'etichetta disposta a collaborare in una maniera attiva, io sono ben disposto a collaborare con chiunque. Non mi faccio pregiudiziali di indipendenti, major o cose, certo, del genere, sì. Insomma, a patto che si faccia... Si faccia musica. Si faccia musica, non dico a modo mio, nel senso che poi le major già adesso sono in caduta libera, quindi tendono a lasciare sempre meno libertà a chi mettono sotto contratto, o viceversa, sì, a lasciarne, ma in realtà non fare nulla. Le etichette indipendenti per il 90%, secondo me più o meno, delle sedicenti etichette indipendenti, come si diceva una volta con le Bregasse Rosse, delle sedicenti etichette indipendenti non esistono, nel senso che spesso un'etichetta è un marchio messo in cima a un disco, spesso il marchio non è nemmeno depositato. Perfetto. E oltre a quello... Parliamo proprio dell'etichetta adesiva in questo caso. Sì, sì, esatto. No, ma spesso le etichette indipendenti, tutto quello che fanno è stampare in un quantitativo veramente ridicolo di copie. Sì. Normalmente adesso la tendenza in Italia delle cosiddette indie italiane è tra le 500 e le 1000. Una volta era 1000, adesso tra le 500 e le 1000 perché la borsa si stringe ancora. E dopodiché cosa fanno? Non so, stampano 500-1000 copie di un disco e poi le vendono al gruppo in genere a un prezzo che oscilla dai 4-5 quando ti va bene fino ai 6 e qualcosa euro l'uno. Ora il gruppo ne compra almeno 150-200 perché amici e parenti il disco lo vendi. Sì. Cioè nel senso, se fai un disco e non pensi di venderne almeno 200, perché lo fai? Certo, certo. Esatto. E a quel punto tu fai i calcoli che la stampa di un disco in 500.000 copie viene a costare solo la stampa, perché l'etichetta in genere anticipa solo i soldi della stampa, cioè paga solo i soldi della stampa, viene a costare intorno al migliaio di euro più o meno. Tu fai il calcolo, 200 copie, 6 euro l'uno, sono già 1200 euro. A questo punto il gruppo, se si faceva tutto per sé, risparmiava soldi, certo. E non aveva qualcuno che faceva finta di essere un discografico quando in realtà non sta facendo niente se non anticipare i soldi che poi gli rientrano subito. Certo, certo. Cioè è veramente... Anche perché tende a coprirsi prima lui, naturalmente. Beh, ma ci mancherebbe, ma questo... da buon imprenditore. Sì, voglio però voglio dire, questo è legittimo, però a questo punto io mi sono chiesto a cosa mi serve. Certo. Avere un marchio, un'etichetta. Io ho conosciuto, adesso non mi hanno fatto vedere i resoconti di vendita, sono confidenze, quindi non sto a dire nomi che poi dopo mi viene. Però io ho conosciuto gente che mi parlava di distribuzioni indipendenti che leggiamo sui giornali, nei retrocopertina dei giornali spesso, che diceva sì, il mio disco è distribuito, però è distribuito soltanto alla Fnac. Perfetto. La Fnac è una catena di dischi, per carità, sì, ramificata, tutto quello che vuoi, ci sono 6 negozi in Italia. Sì, vero. Ora, un disco distribuito magari a 5-6 copie in 6 negozi fa una trentina di dischi. Sì, è vero. Ora, non so se avete presenti i baslottini, quelli che tengono i CD, no? Sì, sì. Quelli che, ecco, uno di quelli piccoli classici, ne tiene 25. Cioè, ora, la differenza tra avere una distribuzione e non averla, se è quella lì, se la differenza è quella lì, la distribuzione non ti serve veramente a nulla. Chiaro. E ti dico, io il disco L'età della ragione, il primo che mi sono prodotto da me, adesso sono in ristampa. Si è venduto parecchie copie, sei stato molto soddisfatto. Sono in ristampa, non mi era mai successo di essere in ristampa e non sono andato nei negozi. Anche perché i negozi purtroppo, e lo dico da purtroppo perché io sì, ancora nei negozi vado, i negozi di dischi sono una specie in via d'estinzione. Sì, sono mosche bianche. Non sì, sono sempre molto deserti anche, confermo, perché effettivamente non c'è mai la ressa innanzitutto, poi non ci sono mai i saldi. Ma i saldi, dire la verità, sono generalizzati nel senso che oggi come oggi insomma abbassano sempre i prezzi, sì, i negozi di dischi. e li capisco perché vendono una merce che in realtà puoi prenderti da solo, sì, legalmente, ma nessuno viene a controllare, e regalartela. Certo. Diventa difficile. Diventa difficile, sì. Diventa difficile vendere dell'aria, cioè nel senso di vendere una cosa che gli altri regalano, comunque che gli altri... Cioè è un po' come, non so, adesso non mi viene il paragone, però... non so, i cioccolatini dopo il caffè sono diventati dischi, nel senso una cosa che viene data omaggio, certo, quasi. Sì, servono a supportare i concerti. Infatti i dischi, tutti i gruppi ti diranno, i dischi più che altro li vendiamo ai concerti. Chiaro, penso così. Tutti quelli che sono passati, certo, qua dicono sì, la stessa identica cosa. Allora, vediamo che aria tira all'interno del tuo ultimo lavoro, Giancarlo. Sì, dall'ultimo? Sì. Allora, dall'ultimo vediamo che aria tira, lo vediamo. Facciamo sentire un primo pezzo. Scelto la traccia numero 7 che si intitola Colleghi. Benissimo. E poi torniamo qui in diretta per commentarle insieme qui su Blu Radio Veneto. Ok. Il tempo uccide piano piano la meraviglia, così a stupirmi è proprio il tuo di stupore. Per quando ho detto che per non avere guai alle cene aziendali non ci vado mai. Capisco che per alcuni sia una festa o solo un'occasione per scappare di casa, per stare un po' insieme come se non fosse abbastanza, 8 ore al giorno nella stessa stanza. Ehi vari, siamo una grande famiglia, son discorsi da scemi, figli di tutte quelle bottiglie vuote e vassoi via via sempre più pieni. Capisco anche che io passi da stronzo coi miei discorsi tipici dei cinici ingrati, che ti ricordano che se stiamo bene ogni giorno in fondo è solo perché siamo pagati. E chi ci ha messo insieme non l'ha fatto certo sulla base della simpatia o dell'umanità. Le parole d'ordine erano altre, profitto costi bassi flessibilità. E quando dici che siamo amici, il bello è che ci credi. Qui non esistono amici, ma soltanto. Colleghi. Come la segretaria del dottor Manicardi, con la quale eri culo e camicia, anche se lei toglieva la camicia e dava il culo a qualcuno dei piani alti di sua fiducia. E ti facevi scudo della sua amicizia, più o meno in tutte le occasioni, finché l'hanno mandata a fare fotocopie in una stanza buia sperando nelle sue dimissioni. Così ora che oltre al culo le è caduto a terra anche il potere, le rare volte che le parli stai sempre bene attenta a non farti vedere. Amiche per sempre, ricordi quando lo dicevi? Qui non esistono amici, ma soltanto colleghi. Altri, ma me non mi freghi. Qui non esistono amici, ma soltanto. Colleghi, colleghi, colleghi, colleghi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccolo qua, abbiamo ascoltato un pezzo dall'album Chi ha rubato le strade ai bambini. A cantarlo e a suonarlo è Giancarlo Frigeri, che abbiamo qui in diretta nei nostri studi. Ancora buona serata Giancarlo, benvenuto sui nostri studi e sulle nostre frequenze. Questa tromba strepitosa, Giancarlo, chi suona la tromba strepitosa? No, è un sassofono, ah, sassofono. Sono due sassofoni, uno baritono e uno tenore. Bellissimo, strepitosamente, un jam session finale praticamente. Max Barmiroli, ti li ricordi Rocking Chairs? Come non me li ricordo, okay. E come? Lui era sassofonista, nonché uno dei fondatori di Rocking Chair. Grande gruppo di Rocking Chair. Sì, ci suonava Graziano Romani. Esattamente. E poi, vabbè, la sezione ritmica più Mel sono stati la banda di Ligabue per anni. Esattamente, sì. Quindi la crema la crema romagnola praticamente. Sì, sì, no, Max è un mito assoluto e ha un negozio di dischi. Tra parentesi. Esatto, ha un negozio di dischi che resiste ancora stoicamente. Fra l'altro, secondo me, insomma, il negozio di dischi più bello che ci sia a Modena, perché ha un sacco di roba sia di musica folk e soprattutto anche di cose africane e asiatiche, ne ha un sacco, ed è stato il mio spacciatore di musica etnica per un paio d'anni. E questa è l'idea di due sassofoni, come ti è venuta per filmare? Ma avevo voglia di un sassofono, poi li ha portati tutti e due, quindi insomma, meglio ancora, insomma, perché dire di no? bisogna abbondare. No, in linea di massima gli arrangiamenti sono un'idea, un pochino ce l'avevo, però sono nati molto in studio con me, Andrea Rovacchi, che è quello che ha prodotto il disco, e anche con Cico qua, che è stato tutto il tempo in studio. Lui inizialmente, insomma, era lì solo per le batterie, però sapevamo che il suo spirito aleggiava su. È stato lui, adesso ovviamente dirà di no, però è stato piuttosto importante nell'economia del suono del disco, l'arrangiamento. Non so se posso prendermi tutto questo merito effettivamente, perché non mi ricordo di aver contribuito granché veramente agli arrangiamenti, però insomma. Poi hai dato se Giancarlo dice così, vuol dire che hai dato il tuo apporto fondamentale. No, è vero, non è perché è qui e dopo, insomma. No. Tra l'altro la macchina è mia, con la quale andiamo, quindi potrei non dirlo, ecco. Però no. Vuoi lasciare qua? No, assolutamente, però appunto dico, non è che sono costretto, se no resto a Padova. No, certo. Vabbè, abbiamo visto in questo collegio una visione un po' gaberiana, no? della cosa. Da cosa è? Dall'ascolto di Giorgio Gaber. Sì. No, sì, Gaber, certo. Giorgio Gaber e Sandro Luporini, cioè la produzione teatrale loro, certo. L'ho consumata, non dico che la conosca a memoria, ma poco ci cala. E quindi ti sei fatto un po', diciamo, influenzare nel bene, perché hai fatto un prodotto come solo Gaber poteva fare, no, in questo caso. Beh, spero, magari. Sì. Cioè, nel senso... Vabbè, visto che noi l'abbiamo sentita come tale, vuol dire che un impulso importante lo hai dato in questa canzone. No, sicuramente ti dico, l'influenza di Gaber c'è, anche se non si sente c'è, perché l'ho ascoltato proprio alla nausea, già da vivo, insomma. Poi ne ho ripreso in mano le cose da qualche anno, quando è stata ora di cantare in italiano e di vedere un po', di confrontarmi con chi in italiano qualcosa aveva già fatto, perché alla fine lo devi fare. Gaber sicuramente è stato il bastone, cioè è stata la meridiana, proprio nel senso di dire ok, partiamo da qui e vediamo cosa riusciamo a fare. Sicuramente. A proposito di questo disco, hai fatto una bella dichiarazione: ogni riferimento a persone o fatti reali è da considerarsi puramente casuale. Sì, perché questa canzone volevo parlare appunto di questa canzone che aveva questo sottotitolo, questa precisazione. Qua questa precisazione perché non voglio prendere delle querele e quindi insomma scrivendo così chiaramente la canzone non presenta nomi di ditte e niente e quindi insomma è una canzone generica sul mondo del lavoro, non solo sulla mia esperienza lavorativa nel corso degli anni nelle ditte dove ho lavorato. In ogni caso ti dico, questa canzone qui quando la suono dal vivo è una di quelle che si becca più applausi alla fine, perché proprio vedi gli applausi di frustrazione, no? Quelli proprio che sì. applaudono bravo, perché come dire, erano anni che volevo dire queste cose. Si identificano. Sì, è giusto che sia. C'è molta identificazione da parte di chi ascolta. Ho visto, ce ne sono tanti, e francamente è un peccato, però insomma penso sia normale. Purtroppo è così, in ogni caso. Sì, nelle ditte medio-grandi penso che questo tipo di rapporti sia inevitabile. Certamente, proprio così. Da Fantozzi, Fantozzi insegna. Sì, esatto. Assolutamente, allora, c'è poco da fare. Un'altra cosa che so a memoria, penso siano i primi due Fantozzi più o meno. Esatto, che danno una chiave di volta notevole. Cioè, sì, sarà forse accentuato, però non è tanto accentuato. Su certe no, cose. Non tanto. Cioè, gli eccessi sono quelli che, per dire, Villaggio leggeva tantissimo Nikolaj Gogol. E qualche cosa di Gogol è tornato dentro i Fantozzi, anche se ovviamente si ricorda magari molto, non so, l'effetto comico di una caduta o di un rumore. Mm-hmm. Però c'è, nei primi due Fantozzi c'è un elemento di satira sociale presentissimo. È vero, è vero. Ed è quello che rende poi i film, secondo me, attualissimi anche oggi. Avevano ripreso anche il fracchia teatrale, diciamo, quello che facevano in televisione, non so. Quello se... fracchia la belva umena. Sì, come... quello non... umena, perché c'è, lì, poi, c'è Banfi. Che... Io me lo ricordo benissimo, anche quando scendeva le scale vestito da presentatore da circo che diceva un camelino di peluche. Questo Villaggio in televisione, sì, sì, ma lì andiamo in bianco e nero, però sì, andiamo camelino, Franz, sì, sì. Cos'è, Kranz forse, forse dottor Kranz, se no lì non ho visto qualche cosa su internet e negli archivi Rai, ma non, no, ma lui è giovane, io sono del 72, è giovane. Allora, visto che ci siamo, Maurizio, cosa dici, facciamo sentire i nostri ascoltatori come suonano dal vivo. Certamente. Okay. Bene, allora io direi, Giancarlo, Cesare, prima ci ascoltiamo una breve pausa pubblicitaria. Perfetto. Dei nostri sponsor, dopodiché ritorniamo subito in diretta e vi partite con la canzone. Benissimo. D'accordo? A tra pochissimo, allora, qui sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Spot. Finalmente un grande concorso per tutta la famiglia. Gioca famiglia! Raccogli i bollini pubblicati sulla Tribuna, sul Mattino e sulla Nuova. Con quelli rossi parteciperai all'estrazione di 4.000 euro in buoni spesa e altri 18 premi De Spar, Eurospar, Interspar. Con quelli verdi all'estrazione finale di una Toyota Yaris e di altri magnifici premi. Trovi le cartelle in edicola e sulla Tribuna, sul Mattino e sulla Nuova. Regolamento sui siti internet dei tre giornali. Montepremi 49.216 euro. Scade il 30 marzo 2011. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, tornati in diretta, quindi spazio alla musica con Giancarlo Frigeri e la presentazione del suo lavoro che si intitola Chi ha rubato le strade ai bambini. Un rappresentante fuori da un ristorante, sguardo basso e orecchio fisso al cellulare, un tir con la foto di Padre Pio va lungo la statale, a me sembra d'essere l'unico normale. Una vecchia disgraziata si lamenta che ci sono più stranieri che italiani, esce dalla posta urlando con la smania di un leone e si tiene stretta al petto la pensione. Un bambino fa i capricci con la madre, se lei non gli compra il mondo fa un casino. Lei si guarda un poco intorno e si chiede se per decenza sia meglio un ceffone un po' di indifferenza. È solo un giorno come un altro e l'indifferenza è generale nella confusione tra generazioni. Tu chiamala come ti pare, troppe parole di sociologi coglioni sono spese per descrivere la vita di paese. Discorso intorno al 25 aprile fa incazzare nero un vecchio partigiano che urla: sarà anche vero che da morti non ci sono buoni o cattivi, ma gli stronzi si distinguono da vivi. Una donna sui 45 anni allo specchio è ferma e aspetta la sentenza, se sia lecito morale quel suo piccolo intervento, o meglio arrendersi allo scorrere del tempo. Ma in fondo è solo un giorno come un altro e l'indifferenza è generale. L'idiozia è letta norma costituzionale. Tu chiamalo come ti pare, questo arrancare tragico e senza pretese, aggrappandosi alla meglio nella vita di uno stupido paese. Ed ecco qua, il primo pezzo che abbiamo ascoltato con Giancarlo Figeri alla chitarra, accompagnato da Cesare alla batteria spazzolata. Ancora buona serata ragazzi e benvenuti qui su Blu Radio Veneto, nella redazione di Padova. Un pezzo che scava, Giancarlo, questo qua, scava in profondità. In che senso? Nel senso del testo, di tutto quanto, cioè fa capire certe cose, sviluppa certi argomenti. Cosa devo dire? No, è importante, sì, è significativo. No, è uno spaccato del paese dove abito, che è Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, e le scene descritte sono scene viste a Rubiera, gironzolando. Sono sinonimi di altre scene viste in altre posti. Sì, posso immaginare. L'unica cosa è quella del partigiano del 25 aprile, che è una, me l'ho preso in prestito, una battuta del Vernacogliere, e l'ho messa dentro. Infatti è la cosa che funziona di più del pezzo, non è mia ovviamente. E l'ho messa dentro appropriandomene indebitamente. Ecco, volevo solo mettervi in guardia, se vedete qualche flash sulla nostra fotografa Chiara. Che è venuta per poi pubblicare le foto sul nostro sito e sul nostro Facebook. Perfetto. Quello che stiamo gestendo. Ecco, quindi breve parentesi, perché magari venite distratti. No, no, da quindi salutiamo anche Chiara, che è venuta a fare il suo dovere e piacere all'interno delle nostre trasmissioni live. rispetto all'Età della Ragione, questo album è uscito abbastanza velocemente rispetto all'Età della Ragione. Come mai, Giancarlo? È passato, sì, neanche un anno. Esattamente, quindi roba, perché erano molti anni che non facevi, eri fermo per modo di dire, perché hai fatto altre cose. Per esempio hai fatto una cover di Con tua moglie di Leonard Cohen. Ah, sì. Bellissima, l'ho sentita. Sì. Sì, su internet. Su internet, sì, perché un pezzettino, è una cosa fatta per una compilation di aveva gestita Corrado Nucini, sì, di Giardino Miro, e hanno fatto una serata dedicata a Leonard Cohen, a Carpi, eccetera, con partecipavano insomma in tanti, c'erano Massimo Volume, Lucia Centrale Elettrica, così, e mi hanno chiesto di fare una cover e l'ho fatta, e visto che c'era anche un cantato femminile in francese ho coinvolto mia moglie. Hai fatto benissimo. Che insomma ha esordito al canto, lei che non mai e poi mai pensava un giorno di finire su una registrazione dove cantasse, invece ha fatto un bel lavoro, fra l'altro, insomma, secondo me. Decisamente. Poi un'altra cosa che ho letto, a me interessa il Paisley Underground, com'è il discorso del Paisley Underground? No, ho un gruppo di amici con i quali abbiamo registrato un disco che adesso per problemi vari, di cui insomma, tra l'altro Cesare. Anche, no, Cesare non è parte del gruppo, però ha una lunga storia, lunga anche storia. Lui sì, potrebbe insomma tirare 3.000 accidenti riguardo alla questione, perché doveva insomma occuparsi di alcune cose inizialmente, poi per insomma motivi vari alla fine non se n'è occupato, vabbè, infatti il disco deve ancora uscire. Però ecco, quello è un progetto normale. Interessante. Sì, sono pezzi miei vecchi in inglese che non sapevo dove mettere. Ah, perfetto. E abbiamo registrato, adesso inizieremo anche tra breve a, insomma, a girare con questi James River Incident, che è il nome del gruppo. Del gruppo. Quindi tanti progetti, però ripartendo dall'Età della Ragione, quindi solo un anno di differenza dall'Età della Ragione a questo disco praticamente. 9 mesi. Sì, circa un annetto. Prima annetto scarso. Più o meno. Avevi tanta cosa, tante altre robe da far sentire probabilmente nel cassetto. Sì, sai cos'è? Che quando ho iniziato a scrivere in italiano ho iniziato facendo molto esercizio. Ah, ok. Perché mentre sostanzialmente in inglese nessuno capisce quello che dice. Perché va detta la cosa. Sì, esattamente. Cioè, almeno nel mio caso non c'era proprio la preoccupazione di in inglese di dire qualcosa che avesse completamente senso. E gli inglesi, tipo il prison con in National Chusel. Beh, adesso right. No, nel senso, no, insomma, il testo c'era, sì, filava, sì, però sì. A volte erano proprio immagini. In molti italiani che cantano in inglese dicono che loro usano la tecnica del cut up alla William Burroughs, che praticamente vuol dire vado a caso. È un modo intelligente di dirlo, quando fa molto figo nell'intervista dire ma noi usiamo molto la tecnica del cut up, che vuol dire sì, noi scriviamo delle parole e poi insomma. Come va? Non è che debbano se suonano bene. Esatto, ecco. Quello è il cut up. Sì. Il cut up all'italiano, insomma, il cut up alla matriciana è quello lì. E, fatto sta che, insomma, quando si è trattato di iniziare a scrivere in italiano, ho iniziato facendo molto esercizio, ho iniziato scrivendo quasi tutti i giorni. E anche quando non avevo voglia, dicevo no, devo arrivare a sera con un pezzo scritto. Poi, ovviamente, buttavo un sacco di roba. Sono stato 6-7 mesi a scrivere veramente di continuo. E insomma, presa la mano, dopo si andava. Ho continuato anche una volta pubblicato e registrato l'Età della Ragione a scrivere tanto. Ed è uscito per questo il disco così velocemente, perché comunque sentivo che avevo i pezzi giusti per fare un disco così. E quindi, insomma, alla fine siamo arrivati ad avere poca distanza. Visto che non ho un'etichetta che mi costringe a stare un anno fermo. O non ho uno pseudo manager che per trovarmi quattro date dove magari non ho neanche voglia di andare a suonare, perché magari mi trattano pure insomma pesci in faccia, e mi dice no, ma adesso per un anno è meglio che non facciamo dischi, come ho sentito fare il gruppo di miei amici, o mi sono detto faccio tutto io, faccio tutto da me, i pezzi dal vivo li voglio fare, insomma i mezzi ci sono, facciamo un altro disco subito. Perfetto. Tant'è vero che io a marzo ne registro un altro. Ottimo, ce lo mandi quello sicuramente. Certo. Dopo lo vieni a presentare, chiaramente. Sì, chiaramente. Subitissimo. È un ciclo continuo. Vediamo già di prendere il calendario e di fissare una data, in maniera da non perderci nulla di Giancarlo. Direi benissimo. Che per settembre-ottobre ci siamo. Bene, perfetto, perfetto. Noi siamo sempre qua. Prendi nota, Maurizio. Sì, bene. Sì, ho già preso nota nella mia mente. Tac, quindi. Ci ascoltiamo allora adesso un altro pezzo tratto da Chi ha rubato le strade ai bambini? Sì, va bene. Perché pensavo di fare qualcosa anche dall'età della ragione, magari. Ma sì, sì, facciamo. Poi magari più tardi. Adesso l'ascoltiamo da disco. Da disco, e poi... il disco. Non capisco mai questa cosa. Sto facendo figure barbine. No, assolutamente. Nessun problema. Magari poi ne sentiremo due di fila cantate dal vivo. Benissimo. D'accordo. Benissimo. Allora ci ascoltiamo la traccia numero 4 che porta il titolo di Canzone del 9 novembre e poi torniamo qui in diretta a commentarla insieme. Ok. Ridevi, scherzavi col bicchiere in mano, brindavi, cantavi sicuro che avresti ballato ancora per molto accanto alle macerie del muro. Parlavi di grandi speranze e illusioni, mostravi le tue qualità, vantando di poter offrire una parola vuota come carità. Parlavi di nuovi mercati, di nuove possibilità da scoprire, convinto che saresti stato più furbo di chi ragionava per fame. Ed ora che sai che non erano i soldi, o almeno non quelli che hai già, a darti l'intelligenza o a rinominarti la felicità. Pensavi che una vacanza oltre Cortina, dove andavi a fare il signore, ti rendesse generoso e forte agli occhi di un popolo nuovo da umiliare. Il tuo sorriso da turista regalava corna a chi a casa tu chiamavi amore. Beh, che mi dici ora che gli altri vengono in vacanza da te? A ragionare così male da scambiare l'essere ricco con l'essere persona civile. E tutti i nostri privilegi fan parte di dure sudate conquiste. Non è che ci siano da sempre le cose solo perché le hai sempre viste. Ridevi e scherzavi col bicchiere in mano, brindavi e cantavi sicuro avresti ballato ancora per molto accanto alle macerie del muro, ma il tuo sogno di uomo libero non ha fatto in tempo neanche a dirsi nato, non ti sei accorto mentre cadeva che era quel muro che stava aggrappato. Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa è la canzone del 9 novembre con un finale davvero particolare di cui adesso sovietico. Infatti sto per dire o è bergamasco e sovietico. No, si tratta del commento quando viene tumulata la barra di Brezhnev del commentatore della TV unica, sì, dell'Unione Sovietica. Scaricato da internet, certo. Quindi un po' di tempo fa, anni 80, primi anni 80, non so se 82, 83, non ricordo l'anno della morte di Brezhnev, esattamente non ricordo. E come mai inserita così alla fine? Perché la canzone, appunto, cioè canzone del 9 novembre, il 9 novembre è la caduta del muro di Berlino, e correvano i giorni del ventennale, c'erano dei grandi festeggiamenti del ventennale del muro di Berlino e della sua caduta, e insomma negli ultimi anni non si fa altro che parlare del fatto che poi comunque le aziende italiane vanno a esternalizzare, si dice oggi, sì, praticamente vanno a produrre le cose nei paesi dell'ex Cortina di Ferro, no? Soprattutto, sì, poi anche in Cina ovviamente, beh, cioè, a proposito, più Cortina di Ferro di quella. Così come festeggiavamo 20 anni fa la libertà di quei popoli, oggi malediciamo la libertà di quei popoli perché lavorano a prezzi più bassi del nostro. Queste, certo, sono, diciamo, le contraddizioni di magari del nostro pensiero, della generazione mia che è nata, che ha visto durante l'adolescenza o l'inizio dell'età adulta questa speranza di libertà, e oggi la maledice, magari inizia a dire, appunto, nei discorsi da bar, per carità, inizia a lamentarsi del fatto che questi popoli alla fine... Siamo noi 40 anni prima. Siamo noi 40 anni prima, appunto, che lavoravamo anche al sabato, oppure tutte quelle cose del genere, e... E adesso a questo punto, come dice alla fine, forse era quel muro che era aggrappato, il sogno di uomo libero che avevi. E a proposito di citazioni, la cosa del muro di Berlino, mentre c'erano i festeggiamenti nel 1989, tutti festeggiavano, ci fu un personaggio in Italia che disse attenzione a festeggiare perché a quel muro eravamo aggrappati tutti. E ho voluto riprendere la citazione anche in questo caso, appropriandomene indebitamente, anche perché era Giulio Andreotti e penso che rubare una citazione a Giulio Andreotti ne ha fatte, insomma, tante. Penso che siamo a credito, sì, no? Sì, sì, sì, esatto, esatto. Perfetto. E come arrangiamento, è molto interessante come arrangiamento, con costruzione degli arrangiamenti, che idea hai avuto per fare questo pezzo in questa maniera? Per questo pezzo qui, ma anche lì l'idea, adesso, perché poi insomma Civo c'era, Cesare, anche te, Cesare, nel senso che magari, sei messo qualcosa, Cesare, nel senso, no, lui questo pezzo fra l'altro è l'unico con la batteria elettronica. Ah, ok. Quindi... esatto, io proprio di questo pezzo non ricordo di aver recitato nulla. So che una sera tu mi hai detto prova a guardare su internet se trovi un qualche discorso in russo. Esatto, ho un pochino guardato se c'era qualcosa, ho trovato effettivamente un database, ho scaricato qualcosa, poi alla fine però il discorso che appare sul disco lo avevi registrato tu, mi pare, con, sì, con io e mia moglie con l'M2. No, però sì, nel senso, se ricordo bene, perché appunto lui è un po' anche la memoria storica di questo disco, perché era sempre comunque in studio, e gli arrangiamenti sono saltati fuori al momento, e in linea di massima l'idea era per la lunga coda finale di avere tante chitarre acustiche subito. Ah, capito. Poi mentre il pezzo andava, Andrea stava pulendo delle tracce, dico questa frase che Andrea in studio diceva sempre, un attimo che devo pulire delle tracce, allora insomma era diventato un tormentone. Il linguaggio tecnico, esatto, non ho mai capito cosa voglia dire. Perfetto. Le lava proprio. Esatto, probabilmente, esatto, le lava, da una mano, forse con la pelle di Dino, quella per lavare i vetri della macchina. E con la calinda magari. Esatto, sì. mentre puliva delle tracce, sì. Io avevo la cuffia e c'è un pianoforte lì in studio e ho iniziato a suonare proprio con due dita come i bambini, perché io il pianoforte... Non lo conosci. Lo conosci poco, cioè. Cioè, io il pianoforte ci conosciamo di vista. Ah, okay. Diciamo che io lo riconosco, lui non mi riconosce a me. E quindi ho iniziato con due dita a suonare questo tema, che poi si sente alla fine più o meno, che è una variazione alla fine, essendo in la minore, e tasti bianchi, dove becchi e becchi bene. Okay. Ho imparato questa regola fenomenale, fantastica, e quindi ho iniziato a vedere che la cosa era molto bella. Ho detto Andrea, proviamo a registrarlo. L'abbiamo provato a registrare, io sono andato di là dicendo ecco, ho fatto una cavolata, insomma, ho fatto una cosa di poco conto. Andrea invece era rimasto a bocca aperta e ha detto no, è molto bello. Andrea suona il pianoforte. Allora io mi sono fatto la coda da pavone, sono tornato in studio e l'abbiamo registrato decentemente, insomma. È uscito così. Poi c'è un altro suono un po' strano che un po' echeggia sotto. Sì. Quella è una chitarra, anche se non lo sembra, effettata con... non ricordo io nemmeno cosa, con tante cose comunque. Bene, interessante, molto interessante. Facciamo un ringraziamento a Flavio, un momento al nostro organizzatore Alberto Pisco, che grazie a lui stasera Giancarlo e Cesare sono qua. Quindi grazie Alberto. Okay. Allora noi continuiamo con un pezzo dal vivo. Sì. Quindi siete belli caldi e pronti per farci ascoltare cosa, Giancarlo? Le disgrazie. Bene. Titolo appunto. Allora insomma, tocchiamo ferro da qualche parte. No, è un pezzo. No. Questo pezzo, io faccio sempre un cappello introduttivo. Questo pezzo parla della. L'idea di questo pezzo mi è venuta sentendo una volta a Radio 2 un DJ dopo il terremoto in Abruzzo che diceva: aiutiamo l'Abruzzo, mandiamo un SMS. Ecco fatto. Cioè, per lui aveva già aiutato l'Abruzzo mandando un SMS. Ed è un pezzo che parla proprio della beneficenza via SMS. Una volta eravamo arrivati all'andare in banca a fare un bonifico, adesso siamo all'SMS, cioè non ci alziamo nemmeno più il culo dalla sedia. E secondo me, io non dico che non bisogna dare niente, né mai, alle campagne di raccolta fondi, però è passato questo pericolosissimo messaggio che praticamente l'aiuto a qualcuno che ne ha bisogno diventa una delega. Cioè, nel senso, la frase che io uso sempre è: io ti aiuto, basta che non mi rompi le palle. Quindi, insomma, è un aiuto, sì, che alla fine magari verrà dato concretamente a tutto quello che vuoi, però dentro al cuore di chi dona c'è poco. E tant'è vero che poi, insomma, doniamo per ogni cosa e alla fine magari il nostro vicino di casa ha un problema e noi manco lo consideriamo, anzi ci godiamo pure sì. Perché quella sera lì non mi hai messo la macchina davanti, cioè quelle cose lì, certo, allora certo. Insomma, venendo da questa cosa qui, poi in genere offendo molte più persone dal vivo, ma per radio volevo evitare. E, insomma, vabbè, le disgrazie allora. We'll be right back. le disgrazie ti seguono sempre, le ritrovi all'improvviso, implacabili e feroci. Le disgrazie sono da tutte le parti, fanno in modo di non avere mai bisogno di cercarti. Le disgrazie ti si parano davanti quando meno te lo aspetti, insensibili e costanti. Non son mica delle inezie le disgrazie. Le disgrazie son disgrazie davvero, che siano fame o carestia, uragani, terremoti. Le disgrazie ti saltano addosso con la loro antipatia e con quel copione fisso che prevede uno sgomento, poi un'energica reazione, solidale commozione, a seguire l'argizione, poi la rabbia. Mandaci un SMS, ecco qui il conto corrente. Ma che fai? Tu non dai nulla, dai, lo fa tutta la gente. Anche il calcio si mobilita, un minuto di silenzio, e si accantona persino la gazzarra in Parlamento. Tutti invitano a donare come se fosse una festa, tutti invitano a donare, però invitano e basta, appena possono ci fanno anche la cresta. Le disgrazie sotto gli occhi di tutti, ci stanno 10-20 giorni, poi il pubblico si annoia. Le disgrazie, sai, non danno mai gioia, sono piene di parole che funzionano per poco, poi spariscono e diventano slogan. Fai un gol per la ricerca, una mela per la vita, e via via di questo andazzo fino a non significare un cazzo. Basta un solo SMS per salvare l'Amazzonia, i bambini di Beslan, il Darfur e la Liberia, tutti posti da aiutare col telefono alla mano. Poi ti danno una cartina e non sai neanche dove sono. È la solidarietà a misura di ogni utente, senza sforzi per capire situazioni più complesse. È l'impegno sociale che dura quanto un colpo di tosse. Spot. Gioca Famiglia! È il grande concorso della Tribuna, del Mattino e della Nuova, dedicato a tutta la famiglia. Raccogli i bollini, puoi vincere splendidi premi. Con quelli rossi partecipi all'estrazione di 4.000 euro in buoni spesa e altri 18 premi de Spar, Eurospar, Interspar. Con quelli verdi all'estrazione finale di una Toyota Yaris e di altri magnifici premi. Trovi le cartelle in edicola e sulla Tribuna, sul Mattino e sulla Nuova. Regolamento sui siti internet dei tre giornali. Montepremi 49.216 euro. Scade il 30 marzo 2011. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci tornati in diretta, sono le 22 minuti primi in questo istante, siete sempre con Blu Radio Sera, programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, Nostri ospiti in questa serata, beh, innanzitutto Giancarlo Frigeri, che è venuto a presentarci il suo lavoro che si intitola Chi ha rubato le strade dei bambini, e poi anche Cesare, suo fido accompagnatore nonché batterista, l'abbiamo appena ascoltato con il pezzo dal vivo che si intitola Le disgrazie. Ancora buona serata Giancarlo. Ti abbiamo sentito un po' incavolato. Anche se, no, io sto benissimo. No, in questa canzone, dove si arrivava quasi all'urlo. No, si arriva proprio all'urlo, perché più su non vado. Più su non... No, anzi, faccio anche fatica. Sì. No, sì, si arriva, è una cosiddetta, insomma, invettiva si chiama, no? Sì, il pezzo parla di questo, insomma. Penso quello che abbiamo parlato chiaro. Prima, certo, sì, certo. Molto chiaro. Ma più che l'SMS, quello che ti dà molto fastidio è la cresta, quella che hai nominato come cresta. Che beh, quella anche che, la cresta. Che fanno dietro alle spalle di chi in buona fede ha fatto, diciamo, la propria donazione, che sia da 2 euro, da 200 euro... poi c'è chi dietro deve gestire il denaro che... Ma ti dico, a me no, a me, per carità, adesso la cresta, bisogna distinguere secondo me la cresta dal costo, nel senso che un'operazione ha un costo e c'è naturalmente bisogno per fare qualcosa, visto che la cosa ha un costo, di qualcuno che venga pagato per farla, come ad esempio vengono pagati gli infermieri negli ospedali per aiutarti, è normale, certo, che venga pagato anche qualcuno che gestisce una cosa che porta, certo, aiuto alle persone. E fin qua ci siamo. E a me la cosa che dà più fastidio è proprio in chi dà i soldi, cioè in noi che diamo i soldi, questo concetto del fatto che io do, non voglio più saperne niente, io do e sono a posto con la coscienza. Cioè, trovo che sia uno scaricarsi la coscienza pericoloso, perché poi non riusciamo più veramente a capire il buon cuore dove sta, nostro. E se lo smariamo dopo diventa pericoloso per chi vive con noi. Per insomma, per noi stessi, non so se mi sono un po' perso. Sì, no. Ma abbiamo capito, no, benissimo il concetto, non senza qualche filo di emozione, perché parlando di queste cose molto forti, beh, insomma, dire, si va di emozioni. Allora, Maurizio, visto che sono le 22 passate, sì, diamo il consueto appuntamento con quelli che sono I tre dischi che hanno caratterizzato, i tre artisti che hanno caratterizzato la vita musicale di Giancarlo Frigeri, poi magari conosceremo anche gli artisti che piacciono a Cesare. Per dirla in una parola, Giancarlo, cosa ti porteresti via oltre al tuo lettore CD? O al giradischi, visto che fai anche vinili in questo sì, caso. Sì. Belli, poi spieghiamo, ecco, la bellissima copertina di questo. Poi spieghiamo vinile, anche del vinile e del CD. Ecco. L'isola deserta. Tre artisti dell'isola deserta. Non, beh, te l'avrà mai chiesto nessuno. No, me l'avevate chiesto anche voi. Appunto, esattamente. Però no, nel frattempo, voglio dire, i gusti possono essere cambiati. Sì, sì, certo, no, sicuramente. Sì. Allora, beh, vabbè, l'opera Omnia di Giorgio Gaber penso che sia un'ottima compagnia, più che altro a livello di testa. Cioè nel senso di tenersi impegnati col ragionamento. E l'opera Omnia di Giorgio Gaber, intendo Gaber Luporini, il periodo, certo, in cui hanno iniziato a collaborare entrambi, praticamente dal teatro canzone, quindi dal Signor G fino a, all'ultimo, a, fino all'ultimo, fino a Aiuto, non mi viene. Non mi viene delle galline. No, io non mi sento italiano. Io mi sento italiano. Io non mi sento italiano. Polli d'Allevamento ce n'è ancora, sì, no? Anche tutti gli anni 80, gli anni 90 di Gaber, secondo me ci sono delle cose notevolissime. E poi, vabbè, l'altra volta mi sembra avessi detto Spirit of Eden dei Talk Talk, che non è mica un disco tanto semplice, non è abbastanza... No, beh, che in un'isola deserta io me lo porterei ancora oggi. Lui è sempre bravo in ogni caso. No, i Talk Talk sono, secondo me, sia dall'album prima, da Color of Spring, quando hanno iniziato a cambiare marcia dall'entrata di Tim Freeze Green fino alla fine della loro esistenza, hanno fatto... E Spirit of Eden probabilmente è veramente la summa. È vero, sono quattro pezzi, uno di 20 minuti che occupa tutto un lato del vinile ed è veramente una cosa, sembra proprio di essere, è il disco che ha tutte le risposte quasi musicalmente. Ne manca uno? Sì, manca uno. Io l'altra volta penso che di avervelo detto, la banana dei Velvet Underground. Sì, mi pare di sì. Perché anche lì, insomma, devo... Lo confermi allora. Ma direi di sì, poi dopo chiaramente posso dirtene altri. Sì, però quello tipo, è epocale. Dai. Tipo Highway 61 Revisited di Dylan, quello, lasciarlo fuori mi brucia, ma ce n'è che mi brucia lasciare fuori. Lo so, ma solo tre sono. Appunto, e quindi insomma, facciamo con testa o croce tra Highway 61 Revisited e la banana dei Velvet. Ok, benissimo. Cesare, Cesare, Cesare non c'eri l'altra volta. Questo è un new entry per noi, visto che sta facendo finta di niente. Sì, perché Cinco penso di conoscere la risposta. Ma non lo so, sai, perché ultimamente nella mia classifica personale al primo posto, beh, per circa 20-25 anni ci sono stati i Beatles, assolutamente. Ah. Però adesso sono un attimino insidiati da Claude Debussy. Che amo veramente a dei livelli incredibili, e quindi non saprei al primo posto i Beatles oppure Claude Debussy. Terzo posto, ma forse dovevo dire degli album oppure degli artisti. No, non importa. Vabbè, insomma, terzo posto i Pink Floyd, probabilmente. Opera Omnia o l'opera barettiana? Un pochino l'opera Omnia. Non sono uno di quelli che dice: ah, gli ultimi Pink Floyd però non mi piacciono perché senza Roger Waters. Non lo so, è un po' come la pizza. C'è la pizza al taglio, la pizza quella della pizzeria e la pizza di un altro tipo. Però sono tutte buone. Alla fine, quando me la mettono davanti, saranno tre cose, però tutte e tre mi piacciono. Cosa dici a proposito di Roger Waters, che ha raddoppiato, triplicato le date di The Wall in Italia? Nonostante sia Roger Waters da solo. A proposito di questo fatto specifico, di Pink Floyd, perché non ero proprio informato di questa cosa e quindi non posso parlare perché di questo fatto specifico. Molti comprano i Pink Floyd, ma non comprano, perché i dischi solisti di Roger Waters non hanno mai venduto come i dischi dei Pink Floyd. Comprano il marchio Pink Floyd basta. È vero, anche se è loro vero. Che dopo Final Cut non c'era più Roger Waters. È vero, è vero. Giancarlo, tu cosa ne pensi? Non lo so. No, neanch'io, per non ero a conoscenza. Io insomma, The Wall è un signor disco, fatto dal vivo ancora oggi, ormai mi sembra un po' un musical. Sì, è diventato un musical, sì. E io sono affezionato al formato, insomma, diciamo, disco. Formato vinile, era doppio album. Sì, vabbè, ma anche cine, nel senso formato audio, certo. Poi sono molto legato al film di Alan Parker. Ah, ok, ok. Perché il film di Alan Parker è stato... insomma, io lo vidi per la prima volta, avevo 14 anni, penso, è stato un bel flash. Decisamente. È una di quelle cose che ti segna l'adolescenza, inizia a farti domande su domande. E quindi sì, non, ormai non. Io non andrò a vedere Roger Waters. No. Eppure però... ha fatto tre esauriti, tre date. Beh, ci mancherebbe. Assolutamente. Beh, era logico. Sì, visto che adesso si sono ritrovati assieme, hanno rifirmato il contratto con la EMI, hanno la pace con la EMI è raggiunta. Qualcuno ha detto: ci sarà un disco nuovo di Pink Floyd? Ma secondo voi ci poteva essere un disco nuovo di Pink Floyd, visto che due elementi, uno se n'è andato e uno è andato via per i fatti suoi, insomma, non, cioè onestamente non so, penso che non vale la pena, secondo ma me. Non lo so, non lo so, onestamente non saprei nemmeno cosa dire davanti a un disco nuovo di Pink Floyd. Appunto, cioè, nel senso, avevo avuto un'idea simpatica, secondo me, quando Syd Barrett era, diciamo, ancora con noi, esatto. Cioè di andare a casa sua, convincerlo a fare, diciamo, un gruppo, no, con me, e alla fine fare, diciamo, causa a tutti gli altri, perché è stato lui, appunto, quello a diciamo, fondare i Pink Floyd, esatto, quindi anche, appunto, a diciamo, dare il nome ai Pink Floyd. Certo, avrei poi alla fine fatto causa a tutti gli altri, avrei fatto togliere il nome Pink Floyd da tutti quanti gli album dopo, appunto, The Piper at the Gate of Dawn, e poi alla fine avrei fatto il secondo album dei Pink Floyd io con Syd Barrett. Perfetto. Però purtroppo questo non si può più fare. Esatto. Cioè tu capisci quando dico che ha contribuito molto al clima, sì, che c'era, sì, in studio, sì, cosa, sì, intendo, perché, no? Perché okay, bisogna, perfetto, pulire qualche traccia. Mi riferisco alla battuta di prima. Va bene, comunque continuiamo a parlare dell'album di Giancarlo Frigeri, Chi ha rubato le strade ai bambini, punto di domanda. Per avere maggiori informazioni oltre a questa trasmissione, il pubblico come fa a c'è conoscere? C'è un sito internet che è, adesso, cioè, adesso è appunto, sì, volevo dirti perché l'ho letto e non ci volevo credere, ed è miomarito.it. ecco, poi ci spieghi perché. Beh, allora, perché prova a dimenticartelo adesso. No. Cioè, o no, voglio dire, infatti in tutti è perché, e la mia risposta in genere, appunto, è prova a scordartelo, miomarito.it. Sì. E il motivo è quello. Bene. Perché il mio cognome lo scrivono tutti sbagliato. Ho visto. Poi è un cognome che ha, cioè, tra nome e cognome sono penso 20 lettere. E, per carità, oggi ti reindirizzano su Google dove vuoi, però insomma, c'era sempre un po' questa cosa qua. E invece miomarito.it, col fatto che uno lo sente e fa ridere e chiede come mai, dopo poi insomma se lo ricorda generalmente. E fa altrettanto ridere anche l'indirizzo per i contatti, l'email, che è la mia email personale, tanto paga @miomarito.it, che è quello che dice mia moglie ogni tanto. Va bene, quindi Giancarlo ci fa anche sorridere con questa, con questi rimandi ai siti internet. Ma tu dovresti vedere le chiavi di ricerca del mio sito, che sono spettacolari ogni mese. Genere perché... bambini, a proposito, visto. No? Sì, no, ma ce ne sono alcuni, perché col fatto che appunto il sito si chiama miomarito.it, la gente capita sul mio sito cercando tutt'altro. E ci sono delle cose che fanno, che non so se si possono dire per radio, perché sono delle perversioni assurde, tipo mio marito fa sesso con mia suocera, cose, cioè delle cose incredibili. E poi oppure c'era mio marito parla con un'altra via internet, oppure devo riconquistare mio marito, e finiscono nel mio sito. Allora io mi immagino magari che vado, non so, a suonare a San Pietro al Natisone in provincia di Udine, e mi trovo, non so, tipo due divorziate che sono lì in prima fila, che sono capitate sul sito, adesso dico per dire. Sì, e hanno ascoltato comunque la tua musica. Sì, spero, sì. Bene. Almeno. Non so, se spero che abbiano riconquistato il marito. Ecco, sì. Importante è questo. Vabbè, allora, ascoltiamo un altro pezzo dal vivo, Giancarlo. Mi metto questa cosa qua. Ah sì, perché oltre alla chitarra e la batteria spazzolata, c'è anche l'armonica a bocca. Sì, c'è l'apparecchio ortodontico di Bob Dylan, che l'ha prestato direttamente. Esatto, sì, eccolo, sono andato, abbiamo lo stesso dentista. Questa canzone qua si chiama La vita che ti ha scelto e parla di una vita mediocre passata principalmente sul lavoro e con poche emozioni. Bene. Che ti ha scelto, non c'è odio né vendetta né imbarazzo di chi ha sbagliato soggetto. Eri tu remissivo e riluttante, il prototipo perfetto. Così ogni tentativo di fuggire senza un piano degno di chiamarsi tale, ogni parola che ti usciva dalla bocca non ha mai impensierito le difese del mistero che ti blocca. Negli occhi della vita che ti ha scelto non c'è mai stata la luce del successo, solo l'impegno costante di chi sta portando a termine un lavoro a testa bassa in ogni istante. E tu continui a parlarmi di te mentre continua a cercarti, e tu continui a parlarmi di te ma io non riesco a trovarti. Scelto. Non ci sono gesti forti né fatica, niente atti di coraggio né regali, ma una serie interminabile di inutile di giorni tutti uguali. E il diritto naturale del possesso, delle piccole abitudini che avevi, ora vedi che non valgono poi molto. Incidenti di percorso capitati alla vita che ti ha scelto, e tu continui a parlarmi di te mentre continua a cercarti, e tu continui a parlarmi di te, io non riesco a trovarti, e tu continui a parlarmi di te, non riesco a trovarti. e tu continui a parlarmi di te, continuo a cercarti. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato un altro pezzo di Giancarlo Frigeri dal suo album Chi ha rubato le strade ai bambini. Un giornalista ha scritto, tra parentesi, questo è un pezzo molto dilaniano. Cosa dici? Questo pezzo qui, sì, sì. Beh, il suono è decisamente... Suono è sul disco poi è proprio... Esatto, sul disco è decisamente sì, così. Sul disco, quando è stata ora di decidere un po' come arrangiarlo, avevo già in mente una cosa di questo tipo e ho voluto proprio esagerare, nel senso, in genere... Il suono proprio da autostrada americano, cerco di evitarlo. Certo. Stavolta ho detto no, suona bene così. E proprio ho detto Andrea, con Andrea voglio dire Andrea, macchina, via, autostrada, America. Facciamolo così. Citiamo i musicisti, Giancarlo, che hanno partecipato. Sì, allora, beh, c'è Cesare, io chiamarti Cesare Cico per me è una... Io ho imparato che lui si chiama Cesare durante le lavorazioni del disco. Perfetto. Perché ci conosciamo da anni, però lui è Cico per tutti. Penso che come Cesare ti conoscano già da stasera molta più gente. I miei genitori sinceramente mi chiamano Cico. Ah, perfetto. Sì, quando magari qualcuno chiamava a casa mia e diceva vorrei parlare con appunto Cesare, lui mi sembrava... Ah, Cico. Sì, va bene. Vorrei parlare con Cesare, è stato accoltellato. Esatto. Dopo questa notizia, parecchi anni fa. No, comunque, a parte Cico, perché così so chi è, e che ha suonato la batteria in parecchi pezzi del disco, c'è stata la Elisabetta Vezzani, la Betty Vezzani, che ha cantato per un qualche periodo di Modern City Ramblers, esatto, che ha fatto qualche coro, e Andrea ha contribuito anche lui con qualche più che altro percussione in questo disco qui, ha fatto più che altro qualche percussione. Poi c'è un amico che si chiama Federico Barbieri, che suona molto bene il pianoforte, ha suonato il piano qui nella vita che ti ha scelto, e l'organo Hammond in Colleghi, perché io non sarei stato assolutamente in grado. E Max Barbiroli, sassofono, esatto, al sassofono e al flauto traverso, sì, della mutazione, certo. E adesso me ne scordo qualcheduno perché non me ne vengono più in mente nessuno, e secondo me abbiamo finito qui. E la produzione è tua con? Andrea Rovacchi, che, sì, che no, lui odia dire che produce i dischi, nel senso che lui dice no, io non produco, io registro. No, okay, non è vero. Questo disco ha messo una buona mano, secondo me, anche negli arrangiamenti, e sono contento che sia stato così, perché ho imparato col passare degli anni che un orecchio esterno alla musica aiuta molto. Certo, certo. Bene, Maurizio, allora ci restano da gestire gli ultimi 11 minuti in compagnia, sì, di Giancarlo Frigeri, in compagnia della sua musica. E vuoi che se facciamo sentire un pezzo da... O vuoi sentire, cioè, facciamo una cosa, potremmo far sentire l'età, sì, della ragione, e chiudere, sì, noi con Chi ha rubato le strade ai bambini. Che esattamente. Se ci riusciamo, facciamo qualche accordo. Tempo. Sforiamo di qualche minuto. Se per te non è un problema, allora facciamo una cosa: facciamo Chi ha rubato le strade ai bambini prima, perché per l'ipotesi devo cambiare accordatura. Ah, ok. Allora facciamo sentire un momento un pezzo dall'età della ragione. No, farei adesso Chi ha rubato le strade ai bambini. Ok, perfetto. Allora, facciamo così, perché dopo devo cambiare accordatura, la cambio durante il pezzo. Benissimo. Mia madre mi chiamava... Aspetta, scusa, perché l'apparecchio non va. Scusate, sì, sono cose che non si fanno in diretta. Mia madre... Mia madre per chiamarmi si metteva alla finestra a urlare. L'urlo era così forte che lo sentiva tutto il quartiere. Capisco che non fosse come regalarmi un cellulare, però capivo all'istante quando era ora di ritornare. Tutte le madri avevano dato dei confini a quei bambini che portavano in grembo, quindi ci arrangiavamo noi ed erano gli anni di piombo. Ora mi dici che tutto è cambiato, certe cose non sono normali. E nel mio quartiere da 20 anni le strade sono sempre uguali. Vi ricordate quando stavamo in strada per ore da ragazzini? Ora che non ne vedo più mi chiedo chi ha rubato le strade ai bambini. Le strade ai bambini. Mia madre non ha mai firmato moduli mentre faceva la spesa. O mi teneva con lei oppure mi lasciava a casa. Quindi restavo in strada con gli amici, lei magari andava in centro. Non stavo ore da solo, io un monitor col mondo dentro. Oggi li scarrozziamo dappertutto, basta che restino al chiuso. Perché per strada non si può più stare, è pericoloso. Dici che parliamo col senno di poi e usiamo più la testa. Non ammettiamo che le strade le pretendiamo in mano nostra. Vi ricordate quando stavamo in strada per ore da ragazzini? Ora che non ne vedo più mi chiedo chi ha rubato le strade ai bambini. Vi ricordate quando stavamo in strada per ore da ragazzini? Ora che non ne vedo più mi chiedo chi ha rubato le strade ai bambini. Chi ha rubato le strade? Ecco qua il pezzo che dà il titolo all'intero lavoro, sia in CD sia in vinile. Chi ha rubato le strade ai bambini? E mi ricordano anche dei quadri quando mia mamma, quando ero piccolo, mi chiamava da lontano e quindi... Sì, no, questo è un passaggio autobiografico. E quindi un po' tutti hanno vissuto sul Giancarlo, sì, sì, sì. È un pezzo punk questo, l'hai dato in versione punk. Beh, insomma, no, è che non, insomma, anche questo con la voce è al limite, quindi... Però con tanta eloquenza, con tanta forza, questo voglio dire. Beh, sì, sì, sì, ma ci vuole. Certo. Ma soprattutto no, quella arrabbiatura di chi deve tornare a casa perché costretto dai genitori mentre si trovava bene con gli amici ma il tempo era scaduto. Però si tornava subito, quasi sì, sempre. Sì, sì, cioè, si tornava subito. Era tipo, sembra era un richiamo, una specie di imprinting. Sì, sì. Esatto. Poi ognuno sentiva la propria sonorità, la propria mamma che ancora con la prima sillaba si capiva già. Sì, sì, assolutamente, esatto. Sì. E poi soprattutto che voce. Cioè mia madre veramente aveva un... Cioè, non lo so, una cosa veramente, insomma... E non è diventata cantautrice? Assolutamente no, non ho mai cantato in vita sua. Non penso di averla mai sentita cantare, proprio, ecco. Tra l'altro. Adesso che mi ci fai pensare. Va bene, Giancarlo. Allora, abbiamo ancora pochi minuti, Maurizio, per stare insieme a Giancarlo, per stare insieme alla sua musica. Come pensiamo di finire il programma? Non ci sarebbe mai fine, perché quando si sta bene in compagnia, così, della musica e delle parole... È difficile dirsi ciao e arrivederci. Certo. Giancarlo, cosa vuoi che facciamo? Gli ultimi minuti. Ma se dipende, se ne abbiamo 4 facciamo l'ipotesi, se ne abbiamo di più... L'ipotesi è meravigliosa, Flavio. Nel senso che bellissimo. Sì, tu mi parlavi dell'ipotesi. Sì, l'ho sentita per 2 mesi consecutive. Appunto, bisogna, non c'è posso venire qui. È meravigliosa, è giusto che Giancarlo ce la faccia sentire dal vivo, assolutamente. Ok, ci sto. Perfetto. Ecco qua, allora ascoltiamo l'ipotesi. Sì, mi prendo un secondo per sentirsi accordata la cosa. Certo. Aspetta, perché appunto... Insomma, facciamo finta che... Ecco, dov'era. Perché sì, è necessario accordare in accordatura celtica e l'ho fatto al volo e non sapevo se... Comunque. Forse è il male del pensiero occidentale non sta nelle nostre facce tese, ma nella pochezza delle nostre pretese. Forse il male, neanche troppo originale, è avere annientato il pensiero senza trovare un'alternativa alla convenienza. Forse la più importante di tutte le nostre sfide sta nel comportarci bene anche quando nessuno ci vede, nel trovare un credo nuovo da applicare ogni giorno che non ci prenda per paura con la minaccia dell'inferno. Forse il male del pensiero in generale è occuparsi di cose vecchie come la coscienza o la morale. E forse il male neanche poi così speciale sta nell'accettare che per star meglio il nostro viaggio abbia il dubbio come unico bagaglio. Forse la cosa più importante di tutto il resto sta nell'accettare di perdere e imparare da questo, nel rifiutare una partita dal risultato scontato, dove gli atleti si drogano e l'arbitro è già stato comprato. E forse non è poi così male. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questo pezzo bellissimo, ci ha fatto sognare l'ipotesi, si intitola così. È stato anche un po' un incubo perché ho fatto sì. Due cappelle gigantesche, chiedo scusa, colpa mia. Non ce ne siamo accorti. Beh, non direi. Di solito sono sempre gli esecutori che si accorgono. Sì, buonanotte. Di... Vabbè, comunque. Vendevi pentole in un'altra vita? No, okay. Solo coperti. Ah, ok. Allora, ringraziamo Giancarlo Frigieri che è venuto qui per proporci le sue musiche, in particolar modo tratte dall'album Chi ha rubato le strade ai bambini, in versione CD e in versione vinile. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, avremmo avuto voglia di ascoltare anche qualcosa del tuo precedente lavoro L'età della ragione, che era un anno di distanza rispetto a Chi ha rubato le strade ai bambini, però ci hai promesso che ritornerai molto presto, Giancarlo. Volentieri. Per cui per cui ascolteremo anche il nuovo lavoro, perché ci hai detto che c'è qualcosa che sta... Sì, c'è qualcosa che bolle in pentola. A marzo dovrei registrare una decina di pezzi nuovi. Bene, quindi abbiamo già preso nota che magari per settembre, Maurizio, ecco, se non anche prima, perché noi siamo sempre qua. Sì, vabbè, ho capito, per carità. Io basta solo metterci d'accordo. Se tutto va bene, settembre-ottobre il disco dovrei avercelo in mano. Ecco, perfetto. Poi dopo, sai, insomma, ci sono tanti intoppi che alla fine saltano sempre fuori. Però se riusciamo ad andare bene... Va bene, dai, allora lo aspettiamo. Maurizio, prima di congedarci, l'appuntamento per... Domani. Sì. Domani alle ore 22 avremo un gruppo blues da Brescia. Ah, bene. Quindi un gruppo blues da Brescia, e domani sera quindi dalle 22 all'interno delle frequenze di Blu Radio Veneto con Rock Wave, l'onda del rock. Esattamente. A proposito e venerdì ne abbiamo un altro, bene, un sì. gruppo country, non mi ricordo da dove, ma sempre fa musica country, venerdì dalle 22:30 alle 24. Benissimo, allora salutiamo anche Renato Ferro che certo, è già pronto per partire con la sua musica hard rock e heavy metal. Ancora una volta ringraziamo Giancarlo Frigeri, ringraziamo anche Cesare alla batteria che ci ha deliziato con queste spazzole sempre in continuo movimento. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi. Grazie a voi. Maurizio, allora salutiamo i nostri ascoltatori e diamo l'appuntamento per le prossime programmazioni live di Blu Radio Veneto, ma non solo. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito caloroso, buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. I'm crying to my daddy on the telephone. How long now? Till the clouds don't roll and you come home the line.